America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We will never waver in our determination to defeat terrorism and to achieve lasting security, prosperity and peace. Thank you very much. It's a great honor to be here. Thank you. Donald Trump, il viaggio europeo, beh, è alla fine, in realtà tutto il viaggio è ormai vicino alla fine. Siamo a Taormina, il presidente è arrivato ieri sera, tra l'altro c'erano delle incertezze su dove avrebbe dormito, ma è arrivato per l'ultimo appuntamento in agenda di questo viaggio molto intenso e molto importante sotto vari punti di vista. A Taormina c'è il G7, l'Italia ospita il G7. Dunque io vorrei subito parlare di questo, di quello che sta capitando in queste ore, perché i leader si sono già incontrati nella mattinata, ma il vertice poi continuerà nel pomeriggio e continuerà domani quando ci sarà la dichiarazione finale, la chiusura e poi il ritorno di Donald Trump a casa. E beh, e lì Donald Trump, dopo essere stato, come dire, osannato, omaggiato dai sauditi, dal mondo islamico, dopo aver avuto un incontro molto buono in Israele, dopo la visita col Papa, dopo gli incontri a Bruxelles in contesto NATO, in contesto Europa, G7, insomma questo suo grande sbarco nello scenario internazionale, beh, rientra a casa dove ci sono mille problemi. Ogni giorno c'è un problema nuovo, ne abbiamo parlato ieri, la questione della Russia resta un problema serio con cui si dovrà confrontare già all'inizio della settimana prossima. Ma torniamo al G7, perché ho con me ai microfoni di America 24, in diretta da Taormina, Paolo Valentino, grande amico, compagno di molti di questi viaggi. Paolo, buongiorno. Allora, buongiorno Mario. Allora Paolo, Taormina, beh, intanto diciamo subito che Taormina è la tua città, il vero ospite di Donald Trump devi essere tu, diciamolo, sì o no? Sì, in effetti gioco in casa. Giochi in casa. Ma tu cosa gli hai combinato? Non posso immaginare, tutti i colleghi saranno... Guarda, io non gli ho combinato nulla, nel senso, sì, è vero che ogni metro incontro un collega che mi chiede un'informazione, possa essere un ristorante o un qualsiasi posto, insomma, sono diventato una sorta di guida qui nel Media Center. Quello che è vero è che, devo dire, non ho mai visto la mia città così pulita, ordinata e rimessa a nuovo negli ultimi 30 anni. Il Teatro Greco probabilmente è tornato ad essere quello che era 40 anni fa. Si conferma ancora una volta che in Italia solo le emergenze possono produrre dei miracoli anche in zone dove il territorio è abbastanza abbandonato. Beh, le emergenze o i grandi eventi internazionali, come è successo per esempio con Expo per Milano, dunque è bene attirarli, diciamolo, questi grandi eventi internazionali. Non c'è dubbio. Allora, dacci il polso, cosa sta succedendo? Guarda, a questo su questo G7, c'è un grande punto interrogativo, che è un duplice punto interrogativo, sia di metodo che di sostanza. Nel metodo noi sappiamo che i successi del G7 sono spesso o molto spesso legati alla chimica che si crea fra i leader. Ora, questo è un G7 che per la prima volta dopo molti anni presenta 5 assoluti novizi, diciamo. 5 dei 7 leader sono alla loro prima esperienza. Sono tutti leader un po' in un certo senso venuti dal nulla e sono al primo, diciamo, grande appuntamento con la ribalta globale. Ricordiamo chi sono, perché scusa, c'è Donald Trump, c'è Gentiloni, c'è Macron. C'è Paolo Gentiloni, c'è Macron, c'è Justin Trudeau e c'è Theresa May. Certo, esatto, quindi cioè, 5 leader pesanti, diciamo. Questo è il grande punto interrogativo. Qual è il tuo pronostico? Ma il mio pronostico è che la chimica funzionerà, funziona sempre, un po' complice il genius loci di Taormina, un po' complice questa bellissima cornice, un po' complice il fatto che in separata sede si sono un po' visti tutti, ha visto Gentiloni, ha visto Macron, ha visto Angela Merkel, ovviamente parlo di Trump, quindi in un certo senso l'interazione bilaterale è già partita. Vediamo come funzionerà quando sono tutti assieme intorno allo stesso tavolo nelle antiche stanze dell'ex monastero dell'Hotel San Domenico. Ecco, c'è una cosa, Paolo, che ti voglio chiedere, perché poi tu conosci l'America, conosci Trump, conosci gli Stati Uniti, hai seguito da Washington la Casa Bianca. Ma secondo te Donald Trump pensa di essere come in un film? È come una cosa incredibile per lui trovarsi con tutti i capi del mondo con cui partecipa a questo incontro? Oppure per lui, essendo un po' narcisista, la cosa è normale? Come la vive secondo te nel suo intimo? Ma io credo che invece il palcoscenico del mondo stimoli molto il suo ego smisurato. Cioè, io credo che lui sia veramente compiaciuto dell'effetto effetto imperiale che ogni viaggio di un presidente americano sprigiona intorno a sé. Io credo che questo colpisca e impressioni persino un personaggio come Trump, un grande narcisista come Trump. Ecco Paolo, però insomma Trump poi ha fatto anche delle cose, no? A parte questo suo narcisismo, questa sua, in Arabia Saudita, un discorso che comunque è rimasto importante, alla NATO c'è stato l'incontro dove ci sono state parole dure naturalmente, però poi alla fine si sono messi d'accordo, per cui si cercherà di fare la guerra al terrorismo, ciascuno è impegnato ad aumentare le spese militari. Ecco, insomma, in qualche modo Trump alla fine riesce a concludere qualcosa. Ecco, a questo G7 riuscirà a concludere qualcosa? Perché lui è, insomma, è su posizioni molto distanti, su temi non secondari, non so, immigrazione, clima, ecco. Dimmi tu come la vedi questa cosa. Mario, è un'ottima domanda, perché sui due temi che tu hai citato, e cioè dire il clima e le migrazioni, esiste una divisione reale, una differenza di vedute molto sostanziale, nel senso che gli Sherpa non sono riusciti per la prima volta a trovare un linguaggio comune che potesse soddisfare tutte le parti, e quindi nella riunione dei capi di Stato per la prima volta dopo molti anni si negozierà veramente. Ricordiamo che sul clima ci sono 6 paesi favorevoli agli accordi di Parigi, mentre Trump ha preso tempo sulla decisione se uscire o meno dagli accordi di Parigi, ma gli americani continuano ad avere una posizione molto dura contro quelle intese. Sulle migrazioni, tema di particolare interesse per l'Italia, sarà difficile convincere a un linguaggio comune un presidente che, ricordiamo, nella sua campagna elettorale proponeva di erigere un muro con il Messico. Ecco, quindi ci sarà un negoziato vero dunque su questo linguaggio, insomma un è la prima G7 volta teso. Dopo molti anni, dicono le fonti diplomatiche, che i capi di Stato negozieranno sul serio, perché non c'è stato un accordo fra gli Sherpa sulla formulazione del comunicato finale proprio su questi temi, e questo rende il vertice tanto più interessante e rende Taormina una location che potrebbe passare alla storia o per una clamorosa rottura o per un successo importante di cui tutti abbiamo bisogno. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!